rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati, spero, alla nostra rassegna stampa europea di temi europei e di quello che i giornali europei e non solo dicono dell'Unione Europea. Tra l'altro vi ricordo, perché spesso lo usate, di mandare messaggi al 349-238-6666, sia per i messaggi SMS che per quelli WhatsApp, o se proprio volete prendere di mira me, ho un account Twitter che è Giulia_Crivelli. Ma partiamo da una questione europea importante, perché è una delle, diciamo, degli appuntamenti elettorali preparatori a quelli più importanti che saranno poi nel 2017, con le elezioni in Germania per il cancelliere, e sappiamo che Angela Merkel si è candidata per un quarto mandato, il che la porterebbe al record stabilito da Helmut Kohl, che tra l'altro è stato il suo precedente nonché mentore, e poi quelle francesi, le presidenziali francesi. E però alle presidenziali francesi ci si avvicina anche con le primarie del centrodestra, di cui parla il New Statesman nel Regno Unito, definendo la corsa a queste presidenziali una corsa che comincia in salita. Le primarie del centrodestra, come sappiamo, nel primo turno sono state vinte da Fillon, e con la grande sconfitta di Sarkozy, che a questo punto ha dichiarato di farsi da parte, e poi vedremo domani come andranno, e vedremo poi settimana prossima quali saranno gli assestamenti. Il New Statesman naturalmente sottolinea che potrebbe succedere quello che è successo in Spagna per un altro caso europeo, in cui un movimento, in questo caso Podemos, definito a seconda dell'autore della definizione o populista o estremista o anticasta, in questo caso per far fronte contro Podemos ci sono state delle grandi coalizioni alla spagnola. Potrebbe succedere forse lo stesso in Francia per fronteggiare invece Marine Le Pen, che è una delle candidate alle presidenziali che si terranno nel 2017. Una questione sempre elettorale, e che però riguarda gli effetti del voto americano, quindi l'elezione di Donald Trump a nuovo presidente americano. Entrerà in carica, in questo momento è presidente eletto, sta formando la sua squadra di governo, entrerà in carica in gennaio, e Der Spiegel, che è uno dei due news magazine tedeschi insieme a Stern, ha pubblicato questo articolo che trovate su Internazionale e integralmente tradotto: la fine della normalità dopo il voto statunitense. La vittoria di Trump ha sconvolto i leader europei. E in effetti è vero, perché se pensate anche alle prime reazioni, che potremmo sicuramente definire scomposte, della Presidente della Commissione Europea Juncker, diciamo che la parola sconvolto, il verbo sconvolto, ci sta tutto. A Bruxelles e nelle altre capitali del continente molti temono che possa incoraggiare l'avanzata dei populisti. E tra l'altro qui in Italia abbiamo già l'esempio, ne abbiamo parlato anche a 24 mattina ieri, di Salvini, al quale piace molto paragonarsi a Trump, o comunque usare l'esempio della vittoria di Trump per spiegare come partiti definiti populisti poi raccolgano, contro magari ogni sondaggio o previsione o ragionamento di tutti quegli intellettuali che a Salvini non piacciono per nulla, raccolgano poi il consenso popolare. Forse bisognerebbe ricordargli che in realtà era dal 1876 che qualcuno non vinceva con così tanti voti popolari in meno rispetto al candidato sconfitto, perché Hillary Clinton ha avuto più voti popolari. Poi per il meccanismo elettorale americano in realtà Trump ha avuto più grandi elettori, e quindi è stato eletto secondo le regole presidente. Però ecco, quando si parla di voto popolare forse bisognerebbe studiare un po' prima, ma non è la specialità di Salvini in generale, che a cui viene più facile, o magari studia, però poi alla fine gli viene più facile parlare per slogan. Passiamo ai quotidiani tedeschi, alla Süddeutsche Zeitung in particolare, perché nella settimana passata, e c'è da scommetterci anche in quella che verrà, in molti quotidiani si sono occupati del referendum. Noi siamo in regime di par condicio, non possiamo dire niente sui sondaggi, lo sapete ormai da non venerdì ieri, ma venerdì ancora precedente, quindi cercheremo di semplicemente citare queste opinioni dei giornali stranieri. E allora la Süddeutsche Zeitung in particolare dice che sicuramente il voto che gli italiani sono chiamati a dare per approvare o rigettare la riforma costituzionale è sorvegliato da vicino anche dai mercati finanziari. Secondo la Deutsche Zeitung, se alla fine vincerà il sì, l'Italia sposerà il cambiamento dopo 3 decenni di paralisi, questa è l'opinione del quotidiano tedesco, o se la riforma di Renzi fallirà dopo 1000 giorni del suo governo, l'Italia ha superato la peggiore recessione della sua storia, però non c'è ancora ad oggi una crescita vigorosa. Sempre la Deutsche Zeitung si è occupata poi anche di un suo illustre politico, che è Martin Schulz. In questa tornata del Parlamento è il presidente del Parlamento dell'Unione Europea, che sapete è un Parlamento un po' anomalo, nel senso che non è poi il Parlamento a legiferare, o meglio approva e studia delle leggi, ma poi in realtà le leggi che veramente hanno effetto immediato sono quelle promulgate dalla Commissione Europea, ma in ogni caso si è anche di questo tipo di ruoli e di riforme che si parla quando si parla di riformare l'Unione Europea. Vedremo se succederà a breve. In ogni caso Martin Schulz ha annunciato che non correrà per un nuovo mandato del Parlamento Europeo e si candiderà invece in Germania alle elezioni del prossimo anno, quelle di cui parlavamo prima e alle quali Angela Merkel ha già annunciato di volersi candidare, appunto, per un quarto mandato da Kanzlerin, cioè da cancelliera. Anche Le Monde si occupa del referendum italiano, anche Le Monde fa riferimento a questi 1000 giorni di governo Renzi e secondo Le Monde, che abbiamo ricordato anche nelle settimane scorse, diciamo che è palesemente un sostenitore di Matteo Renzi, e peraltro però settimana scorsa ha ospitato una lunga intervista Di Maio, dove che naturalmente non ha anche espresso tutti i suoi dubbi, suoi radicatissimi dubbi sul governo Renzi. In ogni caso Le Monde dice: dopo oltre 1000 giorni alla guida del governo, Renzi non si arrenderà senza lottare. Vedremo, perché poi sapete anche quante voci, controvoci si sono rincorse in questi giorni e continueranno a rincorrersi su che cosa potrebbe succedere quando si avrà l'esito del referendum. Le Figaro naturalmente si concentra anche sulle primarie del centrodestra e spiega che dopo la vittoria appunto al primo turno, Fillon adesso sembrerebbe veramente molto sicuro di vincere al secondo turno, e anche perché appunto con Sarkozy fuori gioco lui resta in questo momento il più favorito. Sapete, Le Figaro sottolinea anche come Fillon non sia stato con le mani in mano in questi giorni tra il primo e il secondo turno, facendo anche visita al presidente Putin della Russia per sottolineare come, per spiegare ai francesi, ma non solo ai francesi, che lui potrebbe essere l'uomo del dialogo riaperto con la Russia. Financial Times purtroppo si occupa delle nostre banche, la Financial Times si occupa di sempre delle banche per definizione, uno naturalmente dei temi di cui un quotidiano, il principale quotidiano in lingua inglese economico-finanziario dell'Europa è chiamato a occuparsi, e si occupa anche delle banche italiane e scrive questo: la crisi di Veneto Banca e la sua presa di controllo insieme a Banca Popolare di Vicenza da parte del Fondo Atlante, sapete quel fondo varato per salvare le banche, in cui hanno messo soldi soprattutto altre banche più sane, rischiano di gettare delle ombre sulla regione per la prossima generazione. E in vista del referendum costituzionale, di nuovo tutti mischiano questa questione del referendum costituzionale con altre, di avere potenziali conseguenze politiche. Questo è proprio un reportage che Financial Times pubblica dopo aver mandato un inviato in Veneto, perché sapete che molti risparmiatori sono stati traditi da queste banche territoriali di cui magari conoscevano proprio gli interlocutori, le persone allo sportello, e c'è molto, molto malumore, e continue manifestazioni di fronte agli istituti per appunto di questi risparmiatori, piccoli risparmiatori traditi. Financial Times si occupa anche del referendum, anche parlando di Berlusconi, che sapete in questa settimana che sta per finire ha preso posizione E anche pochi giorni fa ha anche pubblicato un intervento sul giornale, che è il quotidiano di proprietà della sua famiglia, spiegando che lui voterà no, che è giusto votare no, però anche aggiungendo che anche se vincerà il no, non succederà niente, quindi in barba ai catastrofisti. Un'altra segnalazione che voglio farvi prima di chiudere è invece riguarda la Brexit, perché la decisione presa con un referendum il 23 giugno scorso dalla maggioranza dei cittadini del Regno Unito di far uscire appunto il paese dall'Unione Europea, secondo la BBC e secondo anche il Guardian, Theresa May sta cercando di delineare con più precisione le linee guida di questa Brexit, che nei giorni scorsi abbiamo saputo potrebbe costare più di 100 miliardi di sterline alla Gran Bretagna nel breve periodo. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.